2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è una nuova puntata, la puntata del 6 ottobre 2012. Siamo in diretta, il nostro numero verde è 800240024. Grazie a Paolo Corleone che si occupa della parte tecnica. Oggi abbiamo moltissimi ospiti, moltissime voci, anzi direi che forse abbiamo battuto il record nella storia di 2024. Mi fa piacere ricordare anche alcuni ascoltatori che mi hanno scritto questa settimana dicendo: vi ascolto da un mese. Beh, insomma, fa piacere avere nuovi ascoltatori. 2024 è in onda dal 1999, abbiamo anche noi festeggiato da poco i 13 anni, visto che il 4 ottobre del 1999 nasceva Radio 24 e noi siamo in onda, 2024 è in onda da quel giorno, quindi abbiamo festeggiato pochi giorni fa. Io sono Enrico Pagliarini, potete trovarci anche su Facebook e su Twitter cercando appunto Enrico Pagliarini oppure 2024, scrivere anche alla nostra email 2024@radio24.it o, e così chiudo con i contatti, 349-238-6666 per gli SMS. Dunque, Facebook ha annunciato di aver raggiunto il 14 settembre quota 1 miliardo, ma l'annuncio è arrivato pochi giorni fa. Popolazione raddoppiata in poco più di 2 anni. Alcuni numeri con Luca Colombo, che è country manager di Facebook Italia. Qualche giorno fa abbiamo superato il miliardo di utenti, quindi sono oltre 1 miliardo di utenti che utilizzano Facebook su base mensile. E insieme a questo abbiamo fornito poi tutta una serie di altri elementi, forse quello più importante da ricordare in questo caso è quello del mobile, ossia ci sono oltre 600 milioni di persone che utilizzano nel mese Facebook da un dispositivo mobile, che sia smartphone o tablet. Quante sono invece le persone che utilizzano Facebook in Italia? Oggi sono nel mese 22 milioni di persone che utilizzano Facebook. Il dato che cerchiamo sempre di sottolineare parlando dell'Italia è il dato giornaliero, perché ci sono oltre 14 milioni di persone che utilizzano i nostri servizi e strumenti su base quotidiana. Di tutti questi, poi, come dicevo prima, il dato importante altrettanto da sottolineare è il mobile. In Italia siamo oramai a 10 milioni di utenti. Una cosa interessante è che, come capita in altri, per altri servizi nell'economia digitale, più sono gli utenti di Facebook, che è gratuito, più aumentano di sicuro i costi. Poi sui ricavi bisogna un po' intendersi. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Iniziamo dalla Microsoft, che ha annunciato la data di inizio dell'era Windows Phone 8. Sarà il 29 ottobre, appena 3 giorni dopo l'arrivo sul mercato di Windows 8, con i primi PC e anche i primi tablet Surface. Per quanto riguarda Windows Phone, quindi il nuovo sistema operativo per smartphone, i primi prodotti disponibili saranno i Nokia Lumia, i nuovi HTC e anche un modello di Samsung. Amazon ha annunciato anche in Italia il negozio di musica MP3, quindi MP3 Store, e anche il servizio Amazon Cloud Player. Nel negozio si possono comprare canzoni come succede in altri negozi, sono canzoni senza DRM, quindi senza lucchetti, si possono copiare da un dispositivo all'altro, mentre Cloud Player è un archivio in rete dove vengono salvate automaticamente tutte le canzoni comprate, ma c'è anche la possibilità di archiviare tutti i brani che già uno possiede. In questo modo si possono poi ascoltare in streaming da qualsiasi dispositivo. È disponibile da mercoledì anche in Italia la piattaforma PlayStation Mobile, con giochi che possono essere giocati sia su dispositivi certificati PlayStation che su console portatili della Sony. Per ora ci sono 1 ventina di titoli, costo compreso tra 50 centesimi e 13 euro. Samsung ha fatto causa ad Apple per la violazione di alcuni brevetti nell'iPhone 5. L'azione legale si aggiunge ad un procedimento già avviato, quindi di fatto è un emendamento ad una causa già avviata in primavera per gli altri iPhone e per gli stessi brevetti che secondo Samsung sono stati violati. In questo caso i tempi della giustizia americana sono un po' più lenti del solito, il dibattimento è atteso per il 2014. Per quanto riguarda Apple, gli ultimi rumors parlano dell'iPad mini da 7,8 pollici e di un evento di presentazione che potrebbe essere organizzato il 17 ottobre. Secondo alcune fonti, i prodotti sarebbero già in produzione in Asia e potrebbero arrivare sul mercato il 2 novembre a $200. Adesso parliamo dell'atteso provvedimento del governo per cominciare ad applicare anche in Italia le indicazioni dell'agenda digitale europea. Allora, l'Europa, lo diciamo spesso, è molto attenta all'evoluzione tecnologica e ha individuato 101 azioni da fare, cioè una lista di 101 indicazioni che sono appunto l'agenda digitale europea. Allora, gli stati europei, 27 stati, possono o decidere come implementarle sul proprio territorio oppure copiare da chi lo ha già fatto, ma in ogni caso, insomma, ci sono delle best practice in giro per il mondo molto interessanti. Allora, la buona notizia è che il governo, nel provvedimento approvato sullo sviluppo e sulla crescita il 4 ottobre, ha cominciato, perché siamo solo all'inizio, potremmo dire, come ha detto il presidente di Confindustria Squinzi, siamo solo all'aperitivo, quindi ci aspettiamo poi anche tutte le altre portate. Comunque, questa è una buona notizia, iniziamo da qua. Dal decreto sviluppo bis, approvato e presentato il 4 ottobre scorso, emergono una serie di novità che renderanno le nostre vite sempre più digitali. Dalla scuola alla sanità, dalle imprese alla pubblica amministrazione e la giustizia, carte, documenti e tessere verranno sostituite da file immateriali che viaggeranno velocemente, questa è la speranza, su reti telematiche in grado di tracciare, organizzare e semplificare vari aspetti delle nostre attività personali e professionali. L'obiettivo è, secondo le parole del Presidente del Consiglio Mario Monti, quello di fare del nostro Paese un luogo nel quale l'innovazione sia un fattore di crescita sostenibile e produttività delle imprese. Come vi dicevo, abbiamo molti ospiti nella puntata di oggi. Buongiorno, benvenuto a Stefano Quintarelli. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora Stefano, noi ti abbiamo invitato perché tu sicuramente sei stato, lo sei ancora, insomma, uno degli animatori in Italia di un movimento che a volte è identificato o identificabile, a volte è liquido e difficile da identificare, di persone che ritengono importante e urgente digitalizzare la pubblica amministrazione, una serie di processi, comunque introdurre tecnologia all'interno del sistema paese. Ti lancio una prima provocazione, una prima domanda. C'è chi ha detto che questo è un provvedimento buono perché contiene delle buone idee, ma siamo solo alle idee, nel senso che poi tutto deve essere messo in pratica attraverso provvedimenti, molti decreti attuativi. Cosa ne pensi? Beh, che sicuramente è così, nel senso che da noi l'attenzione ai temi tecnologici va a ondate, no? Nel 2000 c'era il forum, negli anni 2000, il forum per la società e l'informazione presso la presidenza del Consiglio, no? Poi ci sono stati tutti i provvedimenti di Bassanini e poi per quasi un decennio ci siamo dimenticati dell'ICT all'interno della pubblica amministrazione, ma anche come fattore abilitante della competizione e del recupero di produttività, che il Paese ne ha bisogno. Direi che i provvedimenti sono stati negli ultimi anni abbastanza, come dire, sparsi e non oggetto di una riflessione strategica, no? Cioè, non so, il ministro Romani aveva stanziato 800 milioni per la banda larga, che però poi alla prova dei fatti i soldi non ci sono più e quindi non c'è stato. Il ministro Brunetta ha fatto dei provvedimenti, ma non c'era un disegno organico e ognuno può pensare alle cose, no, bisogna mettersi lì e dire come uso la leva tecnologica per far guadagnare efficienza al sistema, e questa cosa va condivisa e va pianificata attraverso tutte le attività di governo, attraverso tutti i ministeri, no? Perché l'ICT non è solamente il fatto di fare le stesse cose in un modo digitale perché lo faccio col computer invece che con la carta. Cioè, non è trasformare quello che noi facciamo nel mondo fisico con la carta, con i processi tradizionali, ma è rivedere i processi. Esatto, ripensare. È un abilitatore per rivedere i processi. Io faccio sempre l'esempio della borsa. No, in borsa gli operatori, c'erano le grida, si scambiavano i contrattini segnati su dei foglietti e questi poi venivano portati a chiusura di giornata di sessione a un ufficio che riconciliava tutti i contratti. Quando è stata introdotta la digitalizzazione non è che è stato fatto il fogliettino digitale con le applicazioni che si scambiano i fogliettini e poi si portano tutti al centro. il processo è cambiato, invece di essere da peer to peer è diventato hub and spoke, nel senso che c'è un soggetto centrale dove avvengono le transazioni. Questo è un esempio di revisione del processo. Un esempio di revisione del processo è il provvedimento Brunetta, no? Il provvedimento Brunetta per l'invio dei certificati medici ha cambiato il processo grazie alle tecnologie digitali, facendo risparmiare 200 milioni di euro all'anno all'INPS. Quindi è un fattore abilitante per rivedere i processi, per guadagnare efficienza. In questo senso è una cosa che è giusto che sia al giusto livello di attenzione e di importanza da parte del top management. Non sempre lo è stato, cioè del top management in questo caso, della classe dirigente, certo. Non sempre lo è stato nel passato, andato ondate. Devo dire che un anno e mezzo fa avevamo fatto un appello per sollecitare attenzione al tema del digitale. Questo governo ha fatto una grande operazione, ha annunciato un grande insieme di provvedimenti organici, ripeto, certo che poi questi provvedimenti vanno scritti e poi vanno declinati in regolamenti attuativi, e i regolamenti attuativi sicuramente cadranno al di fuori del oltre il periodo di scadenza di questo governo, e quindi bisognerà vedere se i regolamenti attuativi avranno il necessario supporto da parte del prossimo governo. Quindi comunque tu sei ottimista e dici esiste un rinnovamento da questo punto di vista, ci sono delle idee nuove e soprattutto si sta pensando ad un sistema organico di tecnologia che entra nei processi della pubblica amministrazione, nella vita anche dei cittadini. Sì, sono decisamente ottimista, nel senso che, come diceva un amico, la rivoluzione tecnologica arriva, cioè è una valanga che sta arrivando. No, quindi c'è chi si impegna per cercare di accelerare il fatto che questa trasformazione avvenga, però prima o poi avviene, quindi è una questione di maturità e di tempi. Direi che questo qui è un ottimo inizio della valanga. Senti, ci sono... Valanga in senso positivo, sì, ovviamente. Sì, cioè, no, sì, di solito la valanga, quella tradizionale, non è molto positiva. Stefano Quintarelli sarà con noi anche tra poco, più tardi, per commentare anche altri punti di questo provvedimento che tra poco cominciamo ad osservare e ad ascoltare, visto che siamo alla radio, più nel dettaglio, senza naturalmente approfondire troppo, per due motivi. Beh, primo perché vi rimandiamo ad altro che approfondisce, ad esempio Nova 24, domani assieme al Sole 24 Ore, è tutto dedicato al decreto per lo sviluppo digitale, ma anche perché, come dicevamo poco fa, o come si è capito, non esiste un documento scritto, tutto viene rimandato anche ad una serie di provvedimenti che il governo e tutta la pubblica amministrazione, ministeri eccetera eccetera, dovranno fare. E non dimentichiamo nemmeno il passaggio parlamentare, che è importante, fondamentale, e lì un sacco di cose potrebbero essere modificate. Riprendiamo tra un minuto. 2024. Stiamo parlando di agenda digitale. Il decreto per lo sviluppo che è stato approvato da poco contiene una parte di questa agenda digitale, che è fatta di tante pagine. Come dicevo, in Europa i consigli e le azioni sono più di 100, 101, quindi insomma di cose da fare ce ne sono molte. Iniziamo dalle nostre tasche, da un documento che, ahimè, è ancora fatto di carta. Carta d'identità unificata nel 2014. Si prevede la nascita del documento digitale elettronico, che comprenderà la carta d'identità e la tessera sanitaria. Una tessera con tutti i dati personali che verrà rilasciata gratuitamente. Per accelerare il processo di informatizzazione amministrativa e migliorare i servizi ai cittadini, verrà inoltre istituita un'anagrafe nazionale della popolazione residente, presso cui affluiranno automaticamente tutti i dati contenuti nelle varie anagrafi oggi esistenti. In caso di nascita o morte, ad esempio, i comuni di residenza dovranno inviare le dichiarazioni direttamente all'anagrafe nazionale per via telematica. Se ci pensate, l'anagrafe centralizzata, oltre che più efficiente da un punto di vista tecnico, è anche un modo per fare cose interessanti come il censimento in tempo reale, fare delle ricerche in tempo reale. La carta di identità elettronica e tutti gli altri documenti che potrebbero essere integrati e o collegati a questo, tutti i dati anche ai quali si potrà, speriamo, accedere, sono una chiave per entrare in un sistema digitale. Naturalmente non basta la chiave, bisogna che poi ci sia tutto il resto, quindi è fondamentale che poi, come dicevamo poco fa con Stefano Quintarelli, tutti i processi della pubblica amministrazione cambino e diventino telematici. Pubblica amministrazione online. Le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così come tra la pubblica amministrazione e i privati, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica. L'inadempienza della norma comporterà una responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al personale inadempiente. I dati e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione dovranno essere obbligatoriamente pubblicati in formato aperto, i cosiddetti open data. L'obiettivo è quello di facilitare l'accesso a informazioni di pubblica utilità, favorendone il riutilizzo per analisi, servizi, applicazioni e soluzioni. E guardate che molte di queste cose sono una rivoluzione culturale incredibile, di questo va dato merito al governo e facciamo il tifo perché la pubblica amministrazione riesca poi a trasferire in atti pratici tutte queste idee. Ecco altri provvedimenti per fare sparire le inefficienze, spesso inefficienze dovute alla carta. La posta elettronica certificata per privati, imprese e professionisti. Il decreto prevede un massiccio ricorso alla PEC, l'email certificata, per cittadini, professionisti e imprese, e la creazione di veri e propri elenchi telematici per ognuna di queste categorie. L'obiettivo è quello di snellire e velocizzare tutte le comunicazioni tra privati, imprese e professionisti e la pubblica amministrazione. Dunque, ogni cittadino potrà indicare il proprio indirizzo PEC, qualificabile come una sorta di domicilio digitale, attraverso il quale potrà comunicare con tutti gli uffici pubblici. Viene esteso a tutte le imprese l'obbligo di attivazione della casella di posta certificata e verrà istituito, entro i prossimi 6 mesi, un elenco pubblico degli indirizzi PEC di imprese e professionisti. La posta elettronica certificata servirà anche a velocizzare la giustizia perché dovranno diventare digitali anche le comunicazioni degli atti giudiziari e anche questa è una piccola importante rivoluzione. Molto importante ma altrettanto difficile e complessa, ma sta comunque avvenendo in alcune regioni, è la digitalizzazione della sanità. Prescrizioni e permessi medici telematici. Il digitale conquista il suo spazio anche nell'erogazione delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Oltre alle ricette telematiche già in uso, si prevede che nel settore pubblico tutte le certificazioni di malattia e di congedo parentale dovranno essere rilasciate e trasmesse per via informatica. Per tutti, poi, viene creato il fascicolo sanitario elettronico, FSE, che conterrà tutti i dati digitali di tipo sanitario del cittadino, raccogliendone di fatto l'intera storia clinica. Ci sono naturalmente anche misure pensate per i giovani. Startup, sono state pensate una serie di agevolazioni per la nascita di nuove imprese. Si tratta di sgravi fiscali e semplificazioni, come ad esempio la detrazione IRPEF del 19% per le somme investite nell'azienda fino a 500.000 euro o la detrazione IRES al 20% fino a 1,8 milioni. Allora, visto che dal 2024 non ci occupiamo di fisco, ma questi provvedimenti sono molto interessanti, molto importanti proprio per far partire le nuove aziende. Allora, vi rimandiamo a Nova 24 che vi dicevo si occupa domani con un numero speciale assieme al Sole 24 Ore del decreto per lo sviluppo del digitale e ha anche messo insieme con gli esperti del Sole 24 Ore un ebook, quindi un libro dedicato alle startup, che sono molte in Italia, ci sono molti giovani che vogliono fare impresa, ma visto che la cosa non è semplice e oggi ci sono anche questi nuovi provvedimenti annunciati dal governo, beh, c'è questa guida all'innovazione Startup Now, un ebook che troverete all'indirizzo da domani www.ilsole24ore.com/startup-now. Comunque, se acquistate domani il Sole 24 Ore troverete tutte le indicazioni e anche su Nova 24 il dettaglio dei vari provvedimenti. Concludiamo questa prima parte di 2024 parlando di scuola, di istruzione, poi sentiremo un parere anche di Stefano Quintarelli su questo, visto che la scuola è un tema che lo appassiona molto. Istruzione 2.0. Dall'anno scolastico 2013-2014, nelle scuole sarà progressivamente possibile adottare libri di testo in versione esclusivamente digitale o abbinata alla versione cartacea. I comuni che si trovano in zone particolarmente isolate, inoltre, potranno istituire dei centri scolastici digitali tramite apposite convenzioni con il Ministero dell'Istruzione, che consentano il collegamento multimediale e da remoto degli studenti alle classi scolastiche. Per gli studenti universitari arriva invece il fascicolo elettronico che, raccogliendo tutti i documenti, gli atti e i dati relativi al percorso di studi, consentirà la gestione informatizzata dell'intero excursus. Favorita anche la dematerializzazione dei flussi informativi tra gli atenei per facilitare la mobilità degli studenti. Bene, chiudiamo questa prima parte del 2024 che abbiamo dedicato ad alcuni dei provvedimenti che sono contenuti all'interno del decreto che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, che poi arriverà in Parlamento. C'è anche un disegno di legge parlamentare che parla di agenda digitale, quindi uno degli auspici è che i due provvedimenti vengano messi assieme, l'uno con emendamenti dell'altro. Poi vedremo, insomma, al di là delle technicalities, quali saranno le modifiche, le aggiunte all'interno del Parlamento. Poi ci sarà la necessità anche di una serie di provvedimenti, di decreti attuativi che tecnicamente poi traducono queste idee, e questo è un passaggio molto delicato e fondamentale. Allora, parleremo nel corso della nostra puntata anche di banda larga, e questo lo facciamo tra poco, perché c'è un capitolo di questo decreto dedicato alla banda larga, soprattutto per ridurre il digital divide che stiamo vivendo oggi. Altro capitolo è quello della costruzione di una nuova rete in fibra ottica per la prossima generazione. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa ricca puntata di 2024. Abbiamo battuto il record come numero di ospiti, ma ne abbiamo molti ancora nella seconda parte. Con noi c'è Paolo Corleoni, che si occupa della parte tecnica. Ringrazio lui e anche Anita Panizza per la realizzazione delle schede che avete ascoltato fino a poco fa sul decreto per lo sviluppo digitale, chiamiamolo così, ognuno dà il proprio nome a questo provvedimento. Ringrazio anche Nadia Zammitti, che oggi ci aiuta in regia. Vi ricordo il numero verde per chiamarci in onda in diretta: 800 24 00 24, anche per le vostre considerazioni oltre che per le vostre domande. E segnatevi questo numero, perché tra poco vi faremo una domanda. Ogni settimana vi regaliamo un software e lo faremo anche questa settimana. Dunque, abbiamo parlato di agenda digitale. Tra i punti dell'agenda digitale ce n'è uno molto importante che riguarda la diffusione della banda larga. Di questo cominceremo a parlare tra poco, però poco fa abbiamo parlato di scuola. Allora, è con noi oggi Stefano Quintanelli. Allora Stefano, un tuo parere sul mondo della scuola, ma soprattutto sulla digitalizzazione della scuola. Sulla scuola tocchi un tema a me molto caro. Io di recente sono diventato presidente di un centro studi, un'associazione che si chiama Centro Studi Impara Digitale, che ha l'obiettivo di aiutare i docenti a coordinarsi tra di loro e a condividere buone pratiche nell'uso di strumenti tecnologici per fare didattica efficace. Perché è indubbio che i ragazzi ne sanno molto dal punto di vista tecnologico ne sanno molto di più dei docenti. Il problema è che non tutte, cioè che la tecnologia può essere usata bene o male, no? Dipende dalle fonti, dipende da cosa, se passiamo il tempo a stare su Facebook, oppure se lo usiamo per produrre un ebook di testo relativo a Calvino dove abbiamo cercato delle fonti in rete, o sulla Shloah dove ci siamo documentati andando in giro a cercare delle cose, però sapendo distinguere tra quelle che sono vere e quelle che sono bufale, no, che la Shloah non esiste. Quindi il tema di aiutare i docenti che sono degli immigrati digitali a muoversi in questo mondo è, per me, è una cosa sulla quale mi sto impegnando e che va a complementare quelle che sono le attività top down invece fatte dal ministero, quindi dal governo, e ben venga tutto quello che riguarda la digitalizzazione della didattica e della scuola, perché è chiaro che lì dobbiamo insegnare ai nostri figli ad essere curiosi, perché adesso abbiamo la possibilità di avere le informazioni, sapere le cose e non solo pensarle, no? Lo pensi o lo sai. Lo pensi è una cosa appunto che, di cui non hai elementi. Abbiamo la possibilità, information at your fingertips, di avere i dati e quindi di sapere le cose e quindi di poter prendere decisioni ben informate. Ecco, questa è una cosa che dobbiamo trasferire ai ragazzi e quindi chiaramente è una trasformazione che passa attraverso la scuola. Per me la scuola è l'asse fondamentale per la costruzione del futuro. Eh sì, è proprio così. Dalla scuola poi parte tutto e un asset importante nella scuola sono gli insegnanti che devono essere anche loro digitalizzati. Adesso parliamo dello sviluppo della rete per portare internet in banda larga a tutti gli italiani, cittadini e imprese. Allora, uno potrebbe domandarmi perché un cittadino, perché un ascoltatore dovrebbe preoccuparsi e occuparsi di questo dibattito che a volte è anche un po' complicato perché bisogna conoscere alcune technicalities non necessariamente molto complesse, però a volte insomma è un po' difficile da seguire questo dibattito. Beh, perché tutto quello che abbiamo detto fino adesso, cioè alcuni dei punti dell'agenda digitale presuppongono che ci sia un'autostrada, un mezzo di comunicazione che possa far dialogare la pubblica amministrazione, far dialogare le aziende, la pubblica amministrazione, i cittadini e lo Stato, eccetera, eccetera. E questo è naturalmente internet, per poi non parlare di tutto quello che sta nascendo, di tutti i servizi per i consumatori, per le aziende. Allora, è necessario che noi pensiamo al futuro della rete internet e se guardiamo allo sviluppo che c'è stato negli ultimi 10 anni, possiamo facilmente immaginare che nei prossimi 10 anni lo sviluppo sia ancor più veloce e straordinario. Allora, quindi ci dobbiamo occupare di questo come cittadini e ce ne dobbiamo occupare anche perché siamo degli elettori, saremo degli elettori e in queste elezioni sicuramente questo tema sarà un tema importante. Anzi, io vi invito a segnalarci tutti i movimenti politici che mettono come punti nel loro programma la costruzione di una rete per portare internet in banda larga in tutto il paese. Allora, ci sono due passaggi. Il primo è quello di ridurre il digital divide attuale, quindi portare connettività nelle zone d'Italia dove ancora non c'è nulla o quasi, e anche di questo si occupa il decreto approvato dal governo. Banda larga e ultralarga. Confermato l'obiettivo di azzerare il divario digitale tra le aree del paese, portando la banda larga nelle zone non ancora coperte, nelle aree montane e nei piccoli comuni del centro-nord con un investimento di 150 milioni di euro. A questi si aggiungono le risorse rese già disponibili per il mezzogiorno, circa 600 milioni. Vengono inoltre semplificate alcune procedure e adempimenti per favorire la diffusione della banda ultralarga anche tramite wireless e delle nuove tecnologie di connessione. Chi farà queste infrastrutture e in che modo? Ce lo spiega Cesare Avegna, che è presidente di Asso Telecomunicazioni, che esprime naturalmente anche soddisfazione per l'approvazione del decreto. Ci saranno i decreti attuativi che ovviamente dovranno entrare in questo tipo di dettaglio. La regola normale è che ci siano dei bandi di gara e questi soldi vengono messi a disposizione perché gli operatori, quelli che già realizzano le infrastrutture nelle zone non a fallimento di mercato, possano ovviamente approfittare di questi finanziamenti per poter fare le infrastrutture anche nelle zone a fallimento di mercato. E qua siamo, come dicevo, al primo capitolo, molto facile diciamo da realizzare, cioè quello di ridurre il digital divide attuale. Poi parliamo anche del futuro. Allora, Stefano, prima di salutarti, questi 150 milioni ti sembra uno stanziamento adeguato? Io ritengo che l'effettivo digital divide infrastrutturale sia inferiore rispetto al percepito, ma lo ritengo anche per un'esperienza diretta. Persone che mi scrivono e mi dicono aiutaci ad andare dal sindaco per fare una petizione per portare la DSL perché qui non abbiamo la banda larga, e poi gli chiedo dove abitano, gli trovo 3 fornitori di banda larga wireless che operano nella zona. Cioè, la banda larga wireless sfugge ai censimenti perché è fatta da operatori più piccoli, spesso locali, però sono soluzioni che sono tecnologicamente altrettanto positive. Io a casa mia uso un collegamento a banda larga wireless pur essendo raggiunto da DSL, quindi è effettivamente un'alternativa. Questi non sono così censite. Tante persone sono raggiunte da banda larga wireless ma non lo sanno, per cui il mio suggerimento è andate a cercare il nome del vostro comune con scritto dietro Iperlan HyperLAN, High Performance LAN, oppure WiMAX, e scoprirete che ci sono spesso e volentieri molti fornitori nella vostra zona. Ecco, quindi dire se sono tanti soldi o pochi soldi, io credo, cioè non ho gli elementi per poterlo dire, so che società di consulenza stanno lavorando a delle mappature di questo genere, immagino che nell'attività del governo ci sia anche quello, quando si andrà a fare l'allocazione dei fondi dell'agenzia digitale, non so chi sarà la competenza, anzi sicuramente sarà dell'agenzia digitale, di andare a fare una mappatura, di andare a usare questi dati di mappatura per andare a impiegare i quattrini nei posti là dove veramente serve e non dove ci sono già degli operatori che di tasca propria stanno coprendo le zone, quindi senza sussidi statali. Certo, poi questo è solo un passaggio intermedio, 2 megabit a tutti, no, poi bisognerà fare il salto di qualità, 20, 30, 100 megabit a tutti, e quella è la rete di nuova generazione, ma ne riparleremo l'anno prossimo. Esatto, e poi è un altro film, esatto. Stefano, grazie, buon lavoro, a presto. Grazie Enrico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Adesso ci fermiamo per un minuto, informazioni che arrivano da strade e autostrade, questa è 2024. 2024. Ci scrive Tina un SMS e dice: saremo tutti digitali e va benissimo. Beh, in parte lo siamo praticamente già oggi, ma si stanno studiando strategie per combattere efficacemente i ladri di identità? Sì, questo è un altro capitolo che il governo dovrebbe approfondire. Al momento non ho visto cose concrete, anche se naturalmente nelle normative tecniche ci sono tutta una serie di dettagli tecnici per rendere sicure tutte queste cose, a partire ad esempio dalla carta di identità digitale, e le normative tecniche che abbiamo in Italia da questo punto di vista sono spesso molto molto robuste. Va anche detto che normalmente, se noi guardiamo i dati di oggi, beh, il mondo digitale è molto più sicuro rispetto al mondo fisico. Pensate ad esempio ai pagamenti elettronici, sono molto più sicuri, ma molti purtroppo non lo capiscono. Io quando vedo le file della gente che paga in autostrada con soldi in contanti, proprio non capisco perché la gente non comprenda i vantaggi anche in termini di sicurezza della moneta elettronica, detto che il bancomat ormai praticamente è gratuito su tutti i conti correnti. A proposito di bancomat, dal 2014 dovrebbe essere obbligatorio per tutti gli esercenti ricevere pagamenti con il bancomat, ma anche su questo attendiamo poi i decreti attuativi per capire se sarà vero oppure no. Dunque, abbiamo detto, primo capitolo per la diffusione della banda larga è colmare il digital divide attuale. Altra partita è quella invece del futuro, cioè come porteremo grandi capacità di banda a tutti i cittadini. E guardate che stiamo parlando di un asset competitivo per il sistema paese e per le nostre aziende. Oramai internet è un fattore importante come il costo dell'energia, le strade, anzi direi che lo sia più delle strade e di un altro tipo di infrastruttura, se guardiamo alla media delle aziende. Quindi stiamo parlando di un fattore competitivo per tutto il sistema paese, per non parlare poi dei cittadini, della pubblica amministrazione, eccetera eccetera. Allora, che cosa si sta facendo per il futuro? Allora, c'è un dibattito che attualmente alcuni definiscono congelato, ma oggi vogliamo fare un po' il punto della situazione, anche per farvi capire qual è questo dibattito. Ci sono una serie di progetti che stanno procedendo in autonomia, ma nel background, quindi sullo sfondo, c'è un grande progetto nazionale per costruire una unica rete in fibra ottica. Però partiamo dai progetti concreti che stanno partendo, e partiamo da quello di MetroWeb, di cui Alberto Trondoli, che è amministratore delegato, ha parlato anche ai microfoni qui nei nostri studi, ma facciamo un breve riassunto. Noi abbiamo un progetto nazionale che abbiamo presentato 6 mesi fa e che ha raccolto il consenso, direi entusiasta, da parte del mondo politico, da parte di alcuni operatori come Vodafone e Wind, da parte di Cassa Depositi e Prestiti attraverso Fondo Strategico Italiano, che a giugno ha deciso di investire 500 milioni di euro nel nostro progetto. Il nostro progetto, come credo sia noto, si propone di infrastrutturare in fibra ottica le principali aree urbane metropolitane italiane, caratterizzata da alta densità abitativa, alta intensità di attività industriali e più in generale di servizi, in modo da creare una piattaforma che consenta di aumentare la banda resa disponibile a imprese e famiglie, e quindi di creare una piattaforma che sia abilitatrice poi di tutta una serie di nuovi servizi, nuove applicazioni che saranno, che sono già e saranno sempre di più fondamentali per lo sviluppo del paese, dell'economia, più in generale diciamo per il bene del sistema paese. Questo progetto prosegue, va avanti indipendentemente da quello che accade attorno? Assolutamente sì, perché noi riteniamo che il nostro progetto sia basato su una soluzione che è certamente la più valida dal punto di vista tecnologico nel medio-lungo termine, fibra fino al cliente finale. Quindi l'appartamento. Fino all'appartamento o all'ufficio o alla sede del grande cliente, senza compromessi tecnologici basati su un uso misto fibra-rame. Queste ultime soluzioni sono certamente valide nelle aree a più bassa densità, ma ripeto, nelle aree urbane ad alta o altissima densità la soluzione migliore è la fibra fino alla casa del cliente, quindi la soluzione nota in gergo tecnico come FTTH. Noi siamo fermamente convinti di questo, anche i nostri azionisti, sia F2I che Cassa Depositi e Prestiti, Fondo Strategico Italiano, e quindi noi siamo molto determinati a partire, e partiremo nelle prossime settimane, subito dopo l'ingresso del Fondo Strategico nel nostro capitale, su alcune città italiane. Possiamo già elencare almeno le prime? Ma certamente Genova. A Genova abbiamo realizzato una importante acquisizione di un'infrastruttura in fibra già pronta, sono circa 250 chilometri di rete in fibra nell'area urbana di Genova. Un'altra città sarà Brescia, dove stiamo finalizzando con la 2A l'acquisizione di un'altra importante infrastruttura che copre buona parte della città. Poi stiamo guardando anche ad altre città come Torino, come Bologna e altre ancora. Quindi in queste aree fra quanti mesi, immagino che stiamo parlando di mesi, ci saranno servizi di che tipo? Quindi parliamo di quanti megabit, a che prezzi? Allora, i lavori noi prevediamo che partano entro la fine dell'anno. Naturalmente si tratta di lavori importanti che richiedono tempo, quindi le prime connessioni saranno disponibili intorno alla metà dell'anno prossimo. Saranno utilizzando questa nuova rete in fibra, saranno naturalmente resi disponibili servizi ad almeno 100 megabit, ma anche a velocità superiori, che magari non interessano in questa fase le famiglie, ma certamente interessano le aziende. Sappiamo che le aziende stanno cominciando ad adottare le nuove tecnologie cloud. Queste tecnologie, a differenza di quanto è successo fino ad oggi, richiedono certamente alte velocità di download, ma soprattutto alte velocità di upload, perché c'è un continuo scambio di informazioni fra l'utilizzatore e la nuvola, sia in un senso che nell'altro. Quindi sono tecnologie che rendono assolutamente indispensabili le tecnologie in fibra che sono bidirezionali, a differenza di quelle su rame o su fibra rame. Quindi per le aziende fino a un gigabit, i prezzi poi non dipendono da noi, perché ovviamente saranno i nostri la rete solo. Noi siamo un operatore di rete neutrale, indipendente, terzo rispetto a tutti quelli che poi vogliono utilizzare la rete. Ed è un modello che tra l'altro sta, mi sembra, riscuotendo grande successo, la stessa Telecom Italia, l'abbiamo letto sui giornali, sta pensando a scorporare la propria rete per arrivare a una società di rete che, da quello che capisco, è simile all'attuale MetroWeb. E questo era Alberto Trondoli, che è amministratore delegato di MetroWeb, che, come avete sentito, sta facendo investimenti anche grazie ad un accordo con Wind e Vodafone, che offriranno connettività in fibra in queste prime città che sono state citate, ma poi anche in altre città. Allora, questo modello naturalmente può andar bene in grandi aree urbane dove c'è un business, dove si può entrare con una piccola quota di mercato, cioè Vodafone e Wind cominceranno a erodere clienti agli altri operatori facendo queste offerte, ma se noi estendiamo il perimetro a tutta la nazione è ovvio, per mille motivi che non stiamo qui a raccontare perché sono anche un po' complessi, che la infrastruttura debba essere unica. E allora, per costruire una nuova infrastruttura in fibra ottica che molti sperano e auspicano però possa raggiungere direttamente le case o gli uffici o le aziende direttamente con la fibra ottica, non si può prescindere da Telecom Italia, che oggi è l'operatore che ha il rame e quindi la rete a livello nazionale. Allora parleremo tra poco e sentiremo la voce di Marco Patuano, che è l'amministratore delegato di Telecom Italia, poi sentiremo anche Wind e Vodafone. Ci sono tantissimi operatori e tantissime persone che possono dire e commentare questo tema. Noi abbiamo raccolto alcune di queste voci a Capri, dove c'è stata una due giorni organizzata da Between, che è una società che si occupa di tecnologie, di reti, di telecomunicazioni, una società di consulenza che ogni anno organizza questa due giorni e raccoglie attorno a un tavolo tutte le persone che a vario titolo partecipano a questo mercato, quindi anche, l'avete sentito citata, la Cassa Depositi e Prestiti e anche la Agcom, l'autorità per le comunicazioni, molto importante anche perché è una nuova autorità che si trova di fronte a una serie di dossier sulla quale molti attendono le prime decisioni. Adesso abbiamo un appuntamento con il nostro gioco Numbers 2024. Numbers. Allora, a proposito di numeri, a proposito di banda larga, quali sono i comuni italiani, o meglio, quanti, più che quali, perché non vogliamo la lista, quanti sono i comuni italiani dove la DSL copre, raggiunge tra il 95% e il 100% della popolazione, quindi quali sono i comuni dove praticamente la DSL raggiunge tutti i cittadini e le aziende. Allora, potete scegliere tra 7.890, 3.904 o 4.366. Chi risponde esattamente chiamando il nostro numero verde 800240024 può vincere una confezione di Dragon Naturally Speaking, che è il software di riconoscimento vocale di Nuance. Allora, vince il primo dei nostri ascoltatori che chiama il nostro numero verde e risponde esattamente a questa domanda. Ci risentiamo tra poco. 2024. Disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. 16:32 minuti, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Paglierini, potete trovarmi su Twitter oppure anche spedirmi una email al nostro indirizzo 2024@radio24.it. Oggi con noi c'è Paolo Corleoni, che si occupa della parte tecnica. Abbiamo sentito poco fa il progetto di MetroWeb, che è una società che è neutrale rispetto agli operatori che poi ci forniscono il servizio di connettività internet, che lo forniscono al cliente finale, come Fastweb, che è cliente di MetroWeb, o come i nuovi clienti che stanno firmando con MetroWeb, che hanno già firmato una prima parte del contratto, cioè Wind e Vodafone, che offriranno nei prossimi mesi, direi l'anno prossimo, a partire dal prossimo anno, anche connettività in fibra ottica nelle città che avete sentito. Questo è un esempio di una infrastruttura, di un modello di infrastruttura che sta procedendo, ma come dicevo, a livello nazionale i giochi sono molto più complessi. Naturalmente bisogna avere a che fare con Telecom Italia, che deve entrare in questo grande progetto. Allora sentiamo che cosa ci ha detto Marco Patuano, che è l'amministratore delegato di Telecom Italia. Non sarà una rete, sarà un insieme di reti che andranno a rispondere a un insieme di bisogni, perché voler individuare la stessa architettura tecnologica per una grande impresa, una media impresa o un piccolo imprenditore artigianale o il consumatore finale. E di nuovo all'interno del consumatore finale noi abbiamo la persona anziana e la famiglia con i figli che usano intensamente internet. Ci sarà quindi un insieme di tecnologie dove dobbiamo uscire da un dibattito un po' sterile ormai di quale sia la soluzione tecnicamente più adatta. Questo è un tema per i nostri ingegneri, e dire quali sono i bisogni, i fabbisogni di banda che dobbiamo andare a servire. Credo che già entro la fine di quest'anno, anzi sono sicuro che già entro la fine di quest'anno Telecom Italia risponderà con offerte commerciali di banda ultra larga fissa e mobile. Quindi il dibattito è molto importante, c'è un dibattito di straordinaria importanza sul sistema delle regole, con l'evoluzione soprattutto del pensiero a livello europeo, che permette di sviluppare il discorso su regolamentazioni molto innovative. Quindi secondo me siamo arrivati al punto che si parte. Quando lei dice offerte commerciali entro l'anno, si riferisce a che tipo di offerte? Di banda ultralarga, fissa e mobile per clienti residenziali e impresa. Può essere più preciso? No. 20 mega, 50 megabit? Non è il momento per slogan commerciali, saremo on air quando sarà il momento. Senta, visto che comunque si sta parlando, cioè uno dei temi sul tavolo è costruiamo una società indipendente e neutrale che possa poi accettare il transito di tutti gli operatori. Questa è un'ipotesi che voi valutate o che scartate assolutamente? Guardi, si è discusso molto di una soluzione di questo tipo come se fosse una scelta finanziaria. Telecom Italia è un player industriale che ha una strategia industriale, e la rete è una parte integrante di questa strategia industriale, tant'è che noi abbiamo, indipendentemente da qualunque separazione si voglia portare, una nostra strategia molto importante di realizzazione di un'infrastruttura in banda ultralarga. Adesso il vero tema non è quindi il valore o i soldi che si possono ricavare da un'eventuale separazione della rete, quanto il miglioramento del sistema delle regole che si potrebbe avere laddove noi pensassimo ad una struttura differente a livello societario. È un dibattito molto ampio che non riguarda solo l'Italia, è un dibattito che sta avvenendo a livello europeo. Noi ci siamo dichiarati disponibili a entrare in questo dibattito dal punto di vista corretto. Questa è una grande operazione, un grande tema industriale che va affrontato in logica di politiche industriali. Ci vuole il soggetto pubblico? Può partecipare un soggetto pubblico. In uno schema di questo genere potrebbe partecipare anche un soggetto pubblico. Allora, per soggetto pubblico intendiamo la Cassa Depositi e Prestiti, che, come alcuni più precisi ci dicono, non è tecnicamente soggetto pubblico, ma gestisce soldi privati, ma ha una missione pubblica di medio-lungo periodo. Ma prima o poi riusciremo anche ad avere il presidente Bassanini, che ci spiega anche questa tecnicalità, ma insomma. Finora molti, soprattutto gli operatori alternativi, quelli concorrenti di Telecom Italia, ritengono che pur in presenza di una regolamentazione sull'accesso alla rete, perché ci sono delle regole, il fatto che Telecom possieda la rete in rame e la controlli, questo sia stato finora un vantaggio molto forte, e molti operatori hanno anche in passato criticato l'autorità, ma oggi l'autorità delle comunicazioni ha dei nuovi commissari, un nuovo presidente, quindi molto probabilmente molte cose potranno cambiare in futuro. Allora, pensando al futuro, pensando ai prossimi anni, il dibattito è: costruiamo un nuovo network che deve essere unico, e quindi una delle ipotesi può essere quella di scorporare la rete Telecom, farla confluire all'interno di un unico soggetto e gradualmente sostituire il rame con la fibra. Continueremo tra poco sentendo Wind e poi anche Vodafone, il loro parere. Sono due player molto importanti e molto aggressivi. Giustamente aggressivi in un mercato che dovrebbe essere più competitivo. Maurizio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Maurizio. Allora, noi abbiamo domandato quali sono, o meglio, quanti sono i comuni dove la DSL praticamente raggiunge tutta la popolazione, che ha una diffusione tra il 95 e il 100%. Sono dati ufficiali relativi alla fine del 2011. Qual è la risposta esatta? 4.600 e qualcosa. Sì, è 366, ma va bene. Sì. E lo sai perché hai, diciamo, indovinato o lo sapevi? No, ho indovinato, però sapendo che i comuni sono poco più di 8.100, facendo un ragionamento ho pensato più o meno a questa cifra. Hai detto impossibile che siano 7.890. Sì, impossibile che siano tutti i comuni quasi d'Italia. Sì. Senti, tu dove abiti? In città o vicino alla città di Roma? A Velletri, vicino alla capitale. E sei coperto da DSL o da altre tecnologie? A DSL... diciamo con buone prestazioni. Maurizio, grazie per averci chiamato, per seguirci. Sei un abbonato al nostro podcast? Sì, vi ascolto dal 2000. Ho perso solo le prime trasmissioni del 1999. Vi ascolto tutte le settimane. Bravissimo. Complimenti per la trasmissione. Grazie molto. Grazie molto Maurizio, e tu riceverai a casa Dragon Naturally Speaking. C'è anche la versione per Mac, per chi la desidera, ma poi insomma Maurizio lo dirà al nostro centralino. Ringrazio Maurizio, ma naturalmente ringrazio tutti i nostri ascoltatori per la vostra fedeltà. Allora, Massimo Ibarra, che è l'amministratore delegato, il numero uno di Wind in Italia, sentiamo che cosa ci dice, e mi sembra anche un pensiero molto chiaro, condivisibile, pulito, sulla rete. Diciamo che il punto di partenza è quello di non accettare concorrenza infrastrutturale. L'infrastruttura deve essere unica, dove si gestisce la copertura e gli investimenti in funzione dell'area dove, no, bisogna andare a gestire. Per esempio, in alcune zone d'Italia indubbiamente, in alcune città, è indubbia che la tecnologia più future proof, quella che sostanzialmente è più a lungo termine, è il fiber to the home. In altre zone d'Italia probabilmente la tecnologia può essere mista, per cui si può anche accedere a un fiber to the cabinet, e poi possono esserci sulla parte attiva della rete anche delle soluzioni diverse. Per cui questo non esclude il fatto che possa esserci un mix di accesso in NGN in diverse parti d'Italia o in diverse aree, magari dove c'è una concentrazione di industrie particolarmente elevata. Voi sostenete che in questo progetto debba esserci un'entità, un soggetto pubblico, in che termini e per quale motivo? Soggetto pubblico o a missione pubblica, per esempio la Cassa Depositi e Prestiti in effetti non è pubblica ma ha una missione pubblica, o meglio una missione a lunghissimo termine, di ritorno a lunghissimo termine, è fondamentale perché? Perché deve appunto garantire la possibilità di investire in un contesto in cui i ritorni non sono necessariamente immediati, sono ritorni che comunque avvengono, sono molto differiti nel tempo. Sono sicuri perché la domanda va in quella direzione, però sicuramente non sono i ritorni immediati che un operatore privato si aspetta. E quindi il fatto che esista un soggetto a missione pubblica in grado di garantire investimenti con dei ritorni appunto importanti ma diluiti nel tempo permette agli operatori di poter fare dei ragionamenti che non sono soltanto opportunistici o tattici, ma come dire, comportamenti o ragionamenti più strategici. Senta, lei cosa pensa, che questo progetto possa prendere forma a breve o, visto che la discussione attualmente pare congelata, cosa ne pensa? Io sono convinto che questo sarà il modello che verrà utilizzato, non esiste alternativa a questo modello. Credo che tutti i soggetti interessati ne siano convinti, hanno delle agende, diciamo, a breve termine un po' diverse, bisogna sostanzialmente mettersi d'accordo sull'agenda di medio termine. Quella di breve termine è un po' complicata perché ci sono temi come lo spin-off della rete da parte di Telecom, eventuale, potenziale spin-off della rete in ramo dell'ultimo miglio da parte di Telecom, o altri temi che riguardano sostanzialmente la gestione del proprio assetto competitivo dal punto di vista, no, della quota di mercato nel mobile e nel fisso, il fatto che comunque bisogna anche iniziare a fare un rollout importante dal punto di vista degli investimenti sulle LTE. Quindi quello sarà il modello di arrivo. Ora sta a noi decidere se vogliamo arrivarci fra un anno, due o cinque. Però sarà esattamente quello il modello di arrivo. Magari ci sarà qualche piccolo distinguo, magari ci saranno delle, dal punto di vista tecnico, delle evoluzioni o delle sofisticazioni che in questo momento non stiamo prendendo in considerazione, ma non esiste nessun modello alternativo. Adesso ci fermiamo per un minuto, notizie che arrivano da strade e autostrade, poi sentiremo la voce di Paolo Bertoluzzo, che è amministratore delegato di Vodafone. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata del nostro programma che abbiamo iniziato parlando di agenda digitale del provvedimento del nostro governo. Adesso uno dei punti di questo provvedimento è relativo alla diffusione della banda larga. Noi stiamo parlando del progetto che tutti auspicano arrivi presto per costruire un network di nuova generazione in fibra ottica per il futuro. È un asset importante, fondamentale per il nostro paese, per rendere competitivo il nostro paese. Allora, sentiamo il parere di Paolo Bertoluzzo, che è amministratore delegato di Vodafone Italia e di Vodafone Sud Europa. Ma tanto per cominciare, è un dibattito che è sempre più urgente, o soprattutto è sempre più urgente che arrivi a una sua conclusione, perché mentre noi dibattiamo gli altri paesi vanno avanti e soprattutto crescono le esigenze di connettività e di utilizzo di internet e di comunicazione degli italiani. E questo è, credo, un dato di fatto. Oggi inizia ad esserci una buona convinzione che la domanda ci sia, e quindi è sempre più urgente che si trovi una soluzione che riesca a combinare lo sviluppo del paese e la necessità di mantenere una concorrenza forte nel settore a beneficio proprio del consumatore. Esiste una soluzione che è già in questo momento operativa, che fu lanciata proprio un anno fa a Capri, che è quella di Metroweb, società che fa infrastrutture aperte a tutti gli operatori, fa infrastrutture molto avanzate, e noi crediamo che sia assolutamente una strada da percorrere. Come Vodafone stiamo già investendo con Metroweb per portare la fibra la più avanzata che si possa immaginare a Milano, che diventerà una delle città più cablate d'Europa in questo modo, e poi seguiremo Metroweb dove Metroweb vorrà andare. Poi negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, è tornata d'attualità una discussione che ipotizza una separazione strutturale della rete Telecom e la costituzione di una società della rete partecipata anche dalla Cassa Depositi e Prestiti. Questa è uno scenario, un'alternativa che deve essere valutata con grandissima attenzione, perché potrebbe essere pericolosa e negativa per il paese, ma che invece, se fatta bene, potrebbe essere positiva e potrebbe far fare un balzo avanti a tutti noi. Il mercato da solo può offrire un'infrastruttura in tutto il paese, quindi diciamo il modello Metroweb solo spinto dal mercato, da denaro, investimenti privati, può essere una soluzione? Ma qui purtroppo per quanto riguarda la rete fissa siamo di fronte a un monopolio naturale, nel senso che di rete ce n'è una e probabilmente ce ne sarà sempre una, perché è completamente non economico realizzarne una seconda. Ed è una situazione molto particolare dell'Italia, perché negli altri paesi ci sono le infrastrutture in cavo, gli operatori televisivi via cavo hanno portato e stanno portando la banda ultralarga nelle case delle persone, creando una concorrenza e una spinta concorrenziale agli attuali monopolisti del rame affinché investano anch'essi. In Italia questo stimolo competitivo non c'è. In Italia questo stimolo competitivo c'è nel mobile, e infatti nel mobile si sta investendo sulle infrastrutture di nuova generazione, quindi bisogna solo trovare soluzioni alternative. Io credo che si debba, tanto per cominciare, a partire da una visione realistica che dice che non arriverà mai la fibra in tutta Italia, non avrebbe senso, e nessun paese onestamente arriverà la fibra in tutto il paese, e quindi si devono trovare delle soluzioni che iniziano a soddisfare le esigenze di un primo 30-40% della popolazione. Si può fare con il denaro privato, sicuramente si può fare con il denaro privato, che però seguirebbe delle logiche, essendo l'infrastruttura in rame un monopolio, di investimento molto lento, in attesa della domanda, e questo potrebbe essere invece un pericolo per il paese, perché il paese ha bisogno di uno sforzo di modernizzazione. Quindi anche voi pensate che debba esserci un soggetto pubblico, e in questo caso probabilmente in Italia il soggetto pubblico, anche se poi sulla natura pubblica del soggetto c'è un po' di dibattito, però diciamo è Cassa Depositi e Prestiti. Beh, la Cassa Depositi e Prestiti è un soggetto molto particolare che può avere un ruolo estremamente positivo in questo dibattito, perché è un soggetto che da un lato ha a disposizione ampie risorse, e sono risorse private, e questo costringe la Cassa Depositi e Prestiti fortunatamente e giustamente ad operare secondo logiche di mercato che richiedono che gli investimenti abbiano un loro ritorno economico, esattamente come accade per gli investitori privati. Però poi allo stesso tempo, dato che è anche una missione pubblica, una governance pubblica, può anche avere un'ambizione di modernizzazione del paese, quindi può stimolare, accelerare degli investimenti che altrimenti sarebbero fatti più lentamente. Quindi la Cassa Depositi e Prestiti non deve andare ad investire laddove non ci sono ritorni, sarebbe molto sbagliato, non sarebbe coerente con la sua missione, mentre può operare come facilitatore ed acceleratore di investimenti privati. E così chiudiamo questa pagina bella approfondita dedicata alla costruzione di una rete di prossima generazione. Allora, come ho detto all'inizio, sicuramente alcuni passaggi sono complessi da seguire, ma quello che abbiamo voluto fare oggi è darvi alcuni spunti di riflessione, perché è importante per i cittadini. Se noi vogliamo avere sul nostro smartphone connettività molto forte, non basta avere l'LTE. L'antenna LTE deve essere alimentata da un'infrastruttura in fibra ottica molto potente che porti gigabit all'antenna, che poi li distribuisce tra i clienti della telefonia mobile. Se nelle nostre aziende vogliamo avere connettività per usare il cloud computing, per fare operazioni complesse di calcolo e magari progettazione anche tra una sede e l'altra, sfruttando le nuove tecnologie, ci vogliono delle capacità di banda molto importanti. Magari un'azienda straniera, se vede che in Italia non ci sono queste infrastrutture, potrebbe decidere di andare da un'altra parte. La pubblica amministrazione, quindi i cittadini devono pensarci e devono ragionare in questi termini. La pubblica amministrazione deve fare la propria parte, le aziende stanno dibattendo, anche se al momento appunto il dibattito è un po' congelato, ma è anche importante che la pubblica amministrazione locale ragioni e cerchi di capire come fare per andare avanti su questo fronte, perché come avete sentito probabilmente la fibra non raggiungerà nei prossimi anni tutta la popolazione, tutto il territorio. Allora cosa succede in quelle zone a media profittabilità o addirittura in quelle a fallimento di mercato? Non possiamo accontentarci di colmare il digital divide attuale, perché poi se ne creerebbe uno nuovo. Allora, abbiamo fatto l'esempio del Trentino, ma di esempi di pubbliche amministrazioni locali che stanno pensando a questo ce ne sono vari, soprattutto nel nord, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, ma anche su questo punto bisogna accelerare e accelerare anche il dibattito. Allora segnalateci tutti i politici che si presenteranno alle prossime elezioni, che in qualche modo parleranno e magari hanno inserito già, come ha fatto Renzi, un capitolo, noi speriamo che non ci siano solo poche righe, ma molte più righe dedicate a questi temi. E così abbiamo concluso questa puntata di 2024. Grazie per aver scaricato il file MP3 della nostra trasmissione o di averlo ascoltato in streaming. Qualunque sia il modo con cui ci riascoltate o ci ascoltate, perché non tutti riascoltano grazie al podcast, il podcast magari è la vostra principale, la vostra unica modalità per ascoltare 2024. Dicevo, qualunque sia la modalità, se avete la possibilità, dipende dalle piattaforme che utilizzate, molti utilizzano iTunes, altri utilizzano altri sistemi, ebbene, dipende da quello che usate, se avete la possibilità lasciate un commento, e magari possibilmente positivo, naturalmente. Io sono Enrico Pagliarini, scrivetemi al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, oppure potete partecipare alla nostra discussione su Facebook o anche mandarmi un tweet o seguirmi su Twitter @_Pagliarini. Grazie ancora, appuntamento alla prossima settimana. 2024.